sé yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Pochi istanti fa ha squillato il mio telefono prima che entrassi in questo studio. Era un collega della Radio Svizzera. Mi ha detto: ti dispiacerebbe parlarci della tua nuova malattia? Lì per lì non ho capito, poi ho compreso che in realtà aveva probabilmente letto un pezzo oggi sulla stampa di Torino titolato "Ricoverato tra i malati del web". E quel malato ero proprio io. Quanto tempo passi al giorno davanti a internet? Tanto, almeno 5-6 ore. Un 10 ore. Come una droga questo internet. Non è una sostanza, ma può provocare dipendenza. All'inizio eccitazione, euforia, poi alienazione, fino alla reale incapacità di staccare gli occhi da quello schermo. I più colpiti sono loro, i giovani, figli di un'era dominata da chat, mail, blog, forum, videogiochi. Un vero mondo a parte, per molti seducente, proprio come una droga. Tanto che negli ultimi anni si parla di una vera e propria malattia ossessiva, chiamata dagli psichiatri disturbo da dipendenza da internet. Mi domando chissà perché le cose che danno gusto fanno sempre male, diventano sempre malattia. Sì, ieri mi sono ricoverato per un giorno, ricoverato in un luogo dove c'erano più giornalisti che malati, probabilmente, visto che era stata data da poco la notizia di un centro che curava le dipendenze da internet in un importante ospedale italiano. Parleremo, daremo notizie di questo luogo, di questa fattispecie, però vi racconto la mia storia. Mi sono presentato in questo posto, avendo letto sui giornali che si apriva appunto il primo centro che dava assistenza psichiatrica ai malati di internet, vestito e atteggiato come mi vesto, mi atteggio ogni giorno, davvero malato di internet. Mi ho portato anche addirittura il mio palmarino acceso con la pagina del profilo Facebook aperta, che voi ben conoscete, perlomeno quelli di voi che mi stanno seguendo via web. Avevo messo la mia ormai mitologica foto con la motosega in mano, avevo scritto "sto per ricoverarmi", insomma avevo tutte le caratteristiche del malato psichiatrico dipendente da rete. Oltretutto, quando mi sono presentato all'infermiere, ho detto: sono malato di internet, voglio ricoverarmi. Naturalmente tutte le telecamere dei telegiornali nazionali sono precipitate su di me, perché ero il malato che stanno cercando da tutta la mattina. I medici mi hanno circondato, mi hanno subito sgamato, comunque sono stati molto gentili e mi hanno egualmente ascoltato e hanno sentito quella che è la mia patologia. La mia patologia deriva dal fatto che esiste un test per verificare il proprio grado di dipendenza dalla rete, il test Kimbley, che fa una serie di domande, 20 domande per la precisione, determina un punteggio a seconda delle risposte. Se questo punteggio rasenta i 100 punti, io penso averli ampiamente superati, uno è il caso che si faccia vedere, e quindi mi sono fatto vedere. Visto che esiste una parte precipua del mio pubblico che mi segue dalla rete, visto che condivido con molte persone che ho qui accanto a me in questo momento, come se fossimo un gruppo di autoaiuto, mi hanno salutato: ciao Gianluca, benvenuto, dico ciao, mi chiamo Gianluca, sono un dipendente da internet. Ci siamo subito baciati, abbracciati e abbiamo capito che è il momento di parlare della nostra malattia. Cresce la quantità di quelli che non riescono a staccarsi dal video e dalla tastiera, con crisi d'astinenza, come capita col cibo, il gioco d'azzardo o il fumo. Addirittura un ladro, giorni fa, ha trovato un computer acceso e si è messo a chattare. Io partirei immediatamente dal domandare innanzitutto a quelli che mi ascoltano, e posso chiamare all'800240024 e questa mattina siamo sinceri, parliamo di quelli che sono i sintomi di una nostra presunta, reale o accertabile malattia. Vi faccio qualche domanda: quante volte vi siete accorti di essere rimasti online più di quanto avevate voglia di starci? Vi capita di trascurare le faccende domestiche per passare più tempo online? Vi capita di preferire l'eccitazione offerta dal web all'intimità con il vostro partner? Beh, sono tutte cose che possono capitare nel corso della giornata, nel corso della vita, non ci vedo nulla di strano. Le persone intorno a voi si lamentano per il tempo passato online? Sempre. I vostri studi ne sentono negativamente? Non studio più da almeno 50 anni. Vi capita di controllare la vostra email prima di fare qualche altra cosa importante? Sempre, sempre la controllo, ogni istante nella mia vita. La vostra resa sul lavoro è influenzata negativamente da internet? No, è favorita. Mantengo la mia famigliola grazie a internet. Vi capita di minimizzare quando qualcuno vi chiede cosa fate online? Sì, sto facendolo in questo momento. Vi trovate a scacciare pensieri negativi distraendovi con internet? Sempre. Vi capita di scoprirvi e pregustare il momento in cui siete nuovamente online? Sempre. Vi succede di temere che la vita senza internet sarebbe noiosa, vuota e senza gioia? Ahimè, penso proprio che sia così. Alzate la voce o rispondete male se qualcuno vi disturba mentre siete collegati? Purtroppo sempre, perché c'è sempre qualcuno dietro la schiena che mi domanda qualcosa. Perdete ore di sonno perché restare alzati fino a tardi davanti al computer? Sì, non c'è maniera migliore per passare le nottate quando finalmente tutti sono a letto che stare davanti a un computer. Vi capita di concentrarvi col pensiero su internet quando non siete al computer? Sì, ci provo ogni tanto, grazie a Dio ho un discreto palmare. Vi capita di scoprirvi e dire ancora qualche minuto e spegnere quando siete online? Sì, ancora una e poi basta, succede sempre e si passa molto piacevolmente varie ore. Avete già tentato di ridurre la quantità di tempo che passate online senza riuscirvi? No, non ci ho mai provato perché ci sto benissimo. Cercate di nascondere quanto tempo passate online? Ormai è palese, non nascondo più la mia malattia. Vi capita di scegliere di passare più tempo online anziché di uscire con gli altri? A volte sì, è preferibile. Siete depressi, irritabili o nervosi quando non siete collegati, ma state benissimo davanti al PC? Sì, ahimè, qualche volta mi succede. 800240024. Come rispondereste voi a queste domande? 3-4 ore. Torno la sera a casa, appunto. Era il giorno dopo, devo lavorare. Non ho voglia di uscire, allora mi attacco sulla chat. 2 ore al pomeriggio, 3 ore al pomeriggio, poi un paio d'ore alla sera. In media sì, 4-5 ore. Oltre le 2 ore non vado perché mal di testa, male agli occhi e non mi sento più molto bene, divento molto stanca. Lucio D'Alessandris, buongiorno. Buongiorno. Psicoterapeuta dell'associazione La Promessa, che è convenzionata con il Policlinico Gemelli di Roma, che è la struttura ospedaliera che ha aperto questo nuovo centro specifico ambulatorio. Ambulatorio, ecco, mi corregga se uso qualche termine inesatto. Ambulatorio per le dipendenze da internet, che è attivo da ieri. Ieri mi sono sottoposto io a una sorta di esame, palesemente rivelando la mia identità perché ero stato già scoperto, però ho visto che realmente c'è un'attenzione particolare a questo tipo di sindrome. Ecco, come vi è venuto in mente innanzitutto? Pensate che il fenomeno sia così diffuso e da tenere sott'occhio, da meritare una struttura apposita? Allora, negli Stati Uniti, in Cina e già in Giappone il problema è molto importante, quindi incomincia ad avere aspetti importanti, tant'è vero che in America c'è anche una clinica apposita fatta dalla dottoressa Yang. In maniera preventiva, e anche perché comunque ci sono delle richieste, abbiamo pensato di offrire questa nuova possibilità all'utenza, a chi logicamente si accorge di avere un disagio o comunque dei problemi legati al suo uso di internet, può rivolgersi all'ambulatorio. Secondo lei chi soffre di questa patologia o ha qualche sintomo ne è consapevole? Perché io trovo una grande euforia nel leggere queste domande e nell'aderire spassionatamente a ognuna di questi indicatori di patologia. Allora sì, prima volevo fare una piccola premessa, poi le rispondo, nel senso che ho letto anche sui giornali, eccetera, c'è un grosso tantam, il nostro... Quando escono delle agenzie di stampa, di solito i giornalisti accorrono. Certo, no, però c'è una particolare attenzione rispetto a questo tema, nel senso che noi, piccolo preambolo, è che noi non vogliamo demonizzare la rete come strumento, cioè la rete è l'invenzione, la tecnologia del terzo millennio più importante, è soltanto che quando se ne fa un uso eccessivo e può quindi in qualche modo portare in maniera consapevole e inconsapevole dei danni, un deterioramento psicosociale sulla persona, questo può essere un problema. Adesso, rispetto alla sua domanda, rispetto alla consapevolezza, può succedere che una persona si renda conto, anche rispondendo per esempio a quelle domande che ha letto, che magari ha qualche problema o comunque può avere una dipendenza moderata o grave rispetto alla rete. Molte volte succede che sono le persone attorno, quindi... Comunque rassicuro il mio pubblico, lo psichiatra che ieri mi ha visitato mi ha detto che sto bene, quindi mi rassicuro. Ok, sì, assolutamente, proprio quello il discorso. Nel senso, però può succedere che magari ci sono le persone attorno che si accorgono che comunque la persona sta perdendo il controllo dell'uso dello strumento, ecco, magari, e invece la persona... Ecco, il suo collega che mi ha visitato mi ha espresso... Ma l'ha visitata, vero? Con cui ho parlato, abbiamo fatto una chiacchierata, sì. Volevo mettermi sul lettino, ma mi ha detto che non era il caso, quindi abbiamo fatto una chiacchierata. Okay. Mi ha detto che, esiste oggi una indiscussa tendenza a controllare e essere controllati. I media elettronici in realtà sono degli strumenti meravigliosi, ma allo stesso tempo aumentano la nostra ansia di controllo delle nostre affettività, delle nostre relazioni, e tutto potrebbe cominciare semplicemente dal rovello di leggere l'email del proprio compagno o compagna, o di sapere il contenuto di quell'SMS che è arrivato, fino a sentirsi totalmente controllati, sempre controllati, in una rete in cui appoggiamo felicemente tutte le nostre sensazioni, le nostre emozioni, le nostre scoperte quotidiane, le nostre gratificazioni. Però a un certo punto arriviamo alla necessità di fuggire da questo controllo. La maniera migliore per fuggire dal controllo, la più veloce, la più immediata, è quella di sballarsi. Quindi la fortissima tendenza a cercare sballo immediato attraverso sostanze sempre più efficaci che si osservano di sostanze stupefacenti. Sì, sì. Visto che il vostro osservatorio nasce come osservatorio di tossicodipendenze, ha messo in relazione il fatto che molte volte alla voglia di tanto sballo esiste un'eccessiva attenzione a questi luoghi di ipercontrollo. Quindi da una parte la sindrome da controllare e essere controllati, dall'altra parte la tendenza a cercare la perdita del controllo fanno sì che si possano cominciare a individuare delle forme patologiche nuove ed emergenti. Sì, potrebbe essere un aspetto, sì. Potrebbe essere un aspetto. Senta, su questi cinque tipi di categoria di dipendenti da internet, può dirci qualcosa di più? Esiste la dipendenza da social network, la dipendenza da siti pornografici, la dipendenza da gioco? Come sono distribuite secondo lei, almeno dai primi scontri che avete avuto il vostro ambulatorio? Rispetto ai numeri, logicamente l'ambulatorio ha aperto l'altro ieri, quindi rispetto ai numeri ancora non abbiamo dei dati, logicamente. Quindi rispetto a questo non posso darle una prima dei numeri nella realtà italiana, anche perché la nuova dipendenza, perché può essere viene definita una nuova dipendenza, è nata nel 1906 in America, quindi comunque in America si incominciano ad avere i primi dati, i primi numeri, anche in Italia qualcosa, però veramente siamo in una fase iniziale, quindi qualsiasi numero potrebbe essere uno sbilanciamento e può far sorgere logicamente delle contestazioni. Va bene, io la ringrazio Lucio D'Alessandris per intanto il chiarimento rispetto alla sua struttura, al vostro lavoro, e passo direttamente a dar la voce ad alcuni malati, ad alcuni miei fratelli di dipendenza che fanno parte di questo che voglio fondare stamattina, che è un gruppo di autoaiuto per dipendenti da internet. Achille Correa, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletti. Ciao, mi chiamo Achille. Ciao, mi chiamo Achille. Siccome ho visto che avete scritto blogger, sono un soggetto a rischio. Ciao Achille, benvenuto. Grazie. Ecco, Spiegami, rispetto al questionario che ho enunciato alle domande, qual è il tuo livello di dipendenza? Ah, io l'ho letto e ho visto che mi veniva voglia di argomentare su tutto, cioè non sì o no, ma ah sì, però la mail è importante, ah sì, però poi di notte magari se sono a casa... Diciamo che se lo dovessi compilare dicendo sì o no, probabilmente non ne uscirei benissimo. Però, ripeto, si tratta di argomentare. Io posso dire che da 8-9 anni lavoro su internet e di solito chi lavora su internet rispetto ad altri professionisti, ad altri settori, è anche appassionato del mezzo. Per cui si trova a passare oltre alle ore di lavoro anche le ore poi di svago, la voglia di scoprire se c'è qualcosa di nuovo che gli è sfuggito. Sicuramente internet ora come ora è una macchina succhiatempo. Io su quello non cerco nemmeno di negarlo. Il nostro tempo però non chiede di meglio che essere succhiato. Presento il secondo ospite che sta questa mattina in studio con me. Buongiorno, Serena Nardo, Medico Online. Sono Serena Nardo e sono anche io una dipendente di internet. Visto sì. Che il mio gruppo di autoaiuto questa mattina sembra quasi completo, 800240024, aggiungete la vostra confessione o la vostra ammissione di patologia, o perlomeno, visto che farete parte probabilmente della prova umanità che guarda con commiserazione noi dipendenti, raccontateci la triste storia dei vostri mariti, delle vostre mogli, dei vostri figlioli, dei vostri suoceri che passano tanto tempo perdere loro preziosa esistenza di fronte a un computer. Qui il gruppo di autoaiuto per dipendenti da internet. Sono in studio con Serena Nardo, medico online, con Achille Corea, blogger, due malati veramente pericolosi, ma mai quanto possa esserlo io. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è malato? Lei è malato oppure ha dei malati attorno? Io sono abbenato. Nel senso, mi spiego subito, non la vedo come una malattia, io la vedo come una benattia, nel senso che è una cosa che fa bene. Secondo me, noi siamo nati per comunicare, l'uomo è un animale che comunica. Quindi da tanto tempo, da quando sono nati nuovi strumenti di comunicazione come la radio, come il telefono, come la televisione e come tante altre cose che con internet si moltiplicano giorno per giorno, io penso che tutto questo aiuta la conoscenza, che quindi combatte l'ignoranza, aiuta a combattere l'arroganza attraverso il confronto con altre persone e con altre entità, e tutto questo avviene tramite internet oggi con un'estrema facilità, soprattutto con un dialogo piuttosto... Beh, io le rispondo, devo prendere le parti... Naturalmente di chi guarda con sospetto questa attitudine piacevole e meravigliosa nella quale mi confondo ormai da decenni, dice ma la vita è un'altra cosa, le persone sono un'altra cosa, il contatto reale è assolutamente insostituibile rispetto a quello che voi vi create con le vostre protesi emotive, con il vostro mondo artificiale. Lei come risponde? Ma rispondo molto semplicemente in questo modo, il contatto reale è il contatto del corpo, è il contatto dello sguardo, è il contatto del tipo che qualsiasi animale può avere. Io penso che l'uomo dotato di cervello è in grado anche di immaginare e di immaginare anche delle forme di comunicazione che vadano al di là del contatto reale e del contatto, quindi di espandersi attraverso vie che non sono semplicemente quelle puramente olfattive legate al senso animale. Io facevo prima durante l'intervallo un esempio: Serena Nardo, un medico online che abbiamo sentito molte volte già alla radio, che conosco bene tra i miei contatti Facebook, ci scambiamo spesso impressioni. Questa mattina so che odora di vaniglia e quindi per me è completamente esaurita la necessità di avere altre informazioni da lei. Serena Nardo, come fai a fare il medico online? Ti manca il contatto fisico con i tuoi pazienti? Ma diciamo che in realtà il contatto fisico in parte c'è, nel senso che comunque i pazienti online sono una parte del mio lavoro. Però diciamo che da 3 anni ho sviluppato questo sistema di seguire pazienti che non hanno delle necessità particolarmente importanti di essere visti, diciamo, di persona. Esattamente, sei dietologa. Sì, esatto, nutrizionista, quindi li seguo con un sistema di controllo della composizione corporea online e rispondo ai cosa pazienti. Cosa fanno? Mettono la pancia su uno scanner? Come... È una cosa del genere, praticamente è un metodo basato sull'impedenziometria, per cui misuriamo la composizione corporea, grasso, muscolo, acqua. Questa misurazione arriva attraverso appunto un sistema telematico sul mio computer. Ma come si interfacciano loro? Loro si misurano nelle farmacie. Ah, nelle farmacie esiste, diciamo... Sì, c'è la struttura, c'è un terminale di fatto che permette questa misurazione. E molto loro hanno semplice, una porta USB in cui si attacca? E loro in realtà semplicemente appoggiano le mani su questo strumento, la misurazione della composizione corporea arriva per via telematica, perché nel terminale c'è un telefono sostanzialmente, che trasmette questi dati al mio PC. E io tutte le sere, anzi tutte le notti, insomma, dedico queste 3-4 ore alla valutazione di questi pazienti, perché sono tanti adesso. Beh, la meravigliosa composizione sì, alchemica della carne in esatto, linguaggio informatico, quindi tu ricostruisci i dati e riallucini la loro carne sfatta e dai loro i tuoi esatto, segreti. I miei consigli, quindi l'incoraggiamento, perché poi sono comunque pazienti che hanno necessità anche di essere comunque supportati psicologicamente, devono essere comunque insomma un pochino anche invogliati a seguire comunque un percorso nutrizionale, e quindi di fatto poi si instaura una sorta, non dico di conoscenza, però insomma molti di questi pazienti ormai sono storici, a volte ritornano, magari spariscono per un po', poi ritornano, quindi quasi li conosco, e sono tanti, perché sono oltre un migliaio, quindi insomma senza questo sistema non avrei potuto avere in 3 anni oltre quasi 2000 pazienti. Ecco un malato vero. Mauro, buongiorno. Pronto? 10 ore al giorno sul computer. 10 ore al giorno sul computer per lavoro, e la sera quando torno a casa non lo accendo per nessun motivo al mondo, diciamo mi autodisintossico. Perché io lavoro nel settore informatico di un'azienda, per cui siamo sempre connessi per cercare nuove soluzioni ai problemi e quant'altro. E quindi la sera internet non ce la faccio più. Tanto che ogni tanto quindi lei si moglie... sente ben lontano dalla necessità di andare in un gruppo di autoaiuto, quindi il suo è uno strumento di lavoro, ha la giusta repulsione. Esatto. E quando... Io sono un forzato di internet. Quindi per lei non è uno strumento di evasione, non è un'alternativa gioiosa, è semplicemente il luogo che ogni giorno, suo malgrado o con piacevolezza professionale, deve frequentare. Esatto, nonostante abbia profilo Facebook, eBay e quant'altro, insomma. Lei ne conosce, di malati ne conosce? Sì, parecchi. Rispondono ai sintomi che abbiamo prima, forse prendendo un po' in giro e sbagliando, sì, diciamo, questa mano. Non tanto prendendo in giro, ne conosco più di uno che è totalmente nel mondo virtuale, diciamo così, nel mondo web. Quindi pur frequentando le macchine come lei varie ore al giorno per lavoro, quando torna a casa continua a rimanere attaccata a queste sue aperture verso il mondo. Sì. Va bene, Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lei fa il consulente informatico e combatte siti porno? No, ho sbagliato. In pratica vengo chiamato spesso dall'azienda per combattere questi dipendenti da siti porno e chatline. Ah, è un riabilitatore di onanisti virtuali? No, oddio, più che riabilitatore, sono quello che li fa licenziare poi. Ah, poverini. Si rovinano con le loro stesse mani, proprio il caso di dire. Certo, no, ma c'è ho un caso di questi giorni di un quadro di un'azienda che sotto ore di lavoro ne passa 7:30 sui siti porno. Vabbè. Guardi, nessuno qua fa l'angioletto, la mammoletta, tutti l'abbiamo guardati, siamo passati, sì, certo. Ma io penso dopo un po' uno si stufa, perché alla fine cioè, ma invece no, si satura la curiosità, che può esserci indubbiamente, figuriamoci. Invece no, perché se si segue il percorso di queste persone, si passa dalla mezz'oretta al giorno fino poi a 5-6 ore o a 7 ore e mezza dell'ultimo caso. Ma di ora i colleghi se ne accorgono di questo smaneggio sotto la scrivania sospetto? Sì, ma la cosa più comica è che all'inizio queste persone cercano di coinvolgere i propri colleghi, nel senso: guarda qui che ho trovato, guarda questo video, guarda questa chat qui. Poi in pratica cercano delle scuse per nascondersi, non sono loro, quindi inventano delle improponibili scuse o delle azioni di mobbing, poi alcuni parlano. Ma non hanno internet a casa, nel senso uno lavora, poi la sera va a casa, fa quel che vuole, nessuno glielo impedisce. Ah, non lo so. No, ma è proprio, io penso sia sia una dipendenza vera e propria, perché non... Ma in questo caso penso sia veramente patologica, anche perché queste cose a 14 anni uno le può capire, 15, 16, poi... Questo signore ne ha 60 e passa, quindi... Poverino. Beh, fa un po' di tenerezza, devo dire, andrebbe... Sì, fa anche altro, a mio avviso. No, no, no, nel senso, sì, fa anche altro, non lo metto in dubbio, ma alla sua età dovrebbe starci anche attento, prima cosa. Seconda, è chiaro, il danno lo fa a colui che gli dà da lavorare, perché nelle ore di lavoro bisognerebbe lavorare. Se poi a casa il suo tempo vuole impegnarselo in questa fatigante operazione autonoma, buon per lui, non so, io non entro nei gusti personali, però mi rendo conto che in questo caso siamo di fronte, c'è poco da scherzare, a una patologia reale. Achille... Sì, mi sembra di poter dire che forse la vera prova del 9 è la capacità di staccare. Io ad esempio ho un blog da 6 anni, 7 anni, e molti mi dicono: madonna, ma come fai, ma ancora, ma non ti sei scocciato? Però ho un rito: ad agosto mi fermo, nessuno mi costringe, nessuno mi potrebbe dire, ma io ad agosto preferisco andare al mare, uscire, e non sento questa incredibile esigenza. Sì, ogni tanto c'è un po' di curiosità, ma è proprio una cosa che è quasi una prova. Posso stare un mese senza internet? Solitamente sì, e quella, diciamo, è abbastanza una prova. Se preferisci internet alla spiaggia o a conoscere una persona nuova, uscire, forse qualche piccolo problema c'è. Finché ce la fai a staccare, a uscire o a non correre a casa, io non mi preoccuperei. Però. Esistono, diciamo, delle fattispecie proprie della frequentazione della rete e delle circostanze che si verificherebbero comunque. Il sessantenne impiegato folle distruttore delle proprie sinapsi e delle proprie diottrie, naturalmente farebbe la stessa cosa se non ci fosse internet con i giornalini, farebbe i buchi sulle porte dei gabinetti, comunque avrebbe sempre modo, visto che ha una sindrome di compulsione autoerotica molto spiccata. Ma il blogger, colui che ha una sua comunità in rete, ha qualcosa di nuovo rispetto a tutto ciò che c'era in precedenza. È il piccolo sovrano di un regno molto fibrillante, molto attento, deve continuamente alimentare con la sua presenza. Beh, sì, c'è sicuramente un po' di protagonismo che però da un certo punto di vista salva da tutta una deriva patologica, nel senso che tu in rete, quando hai un social network, un blog o comunque un account, ci metti un'identità. Non è quella cosa nascosta, quel mordi e fuggi delle chat di una volta, ogni volta ti inventi un nome diverso, fingi di essere chi non sei. Alla lunga non dura, quindi diciamo una cosa molto più reale di quanto non si creda, anche perché di solito se uno frequenta i social network, conosce gente in rete, prima o poi li incontra. In realtà basta frequentare o dei blog o delle comunità o dei social network per capire che poi è pieno di pizzeri insieme, riunioni, incontri, conferenze alle quali si va. È tutto molto meno malato in genere di quanto non si legga sui giornali o non si senta nei telegiornali. Sto notando in questi giorni nel social network che frequento, ad esempio, una grande adesione di vestali in lutto per la scomparsa di Alda Merini. Una poetessa insigne, ma che improvvisamente, addio Alda, addio, ci mancherai, sublime diva e musa dei nostri giorni. Ci siamo fatti una riflessione, ma quanti di queste persone avranno letto veramente un libro della Merini? Sì, questo lo diceva l'altro giorno una persona che cito, Liffast, è un nick che però conosco, quindi insomma è un nick dietro quale c'è una persona. È difficile poi che tutte queste persone che si esprimono online abbiano poi davvero un retroterra per cui potrebbero farlo. Il problema è che è facile, per cui poi da fuori si può anche venire etichettati come quello che veramente si interessa di una cosa quando hai solo fatto un click e contemporaneamente sei un grande sostenitore della libertà di voto in un paese dittatoriale, ma anche del panino con la porchetta a Frascati. E quello, devo dire, è un po' un grosso filone, è quello dei cuccioli abbandonati, adesso un po' meno. Su Facebook c'è un periodo che mi riempivano di foto di cuccioli rognosi, malati, dice adotta questo povero cucciolo, che non ne potevo più. Beh, quello poi a volte è il problema, anche che girano foto di cuccioli che nel frattempo sono morti, perché c'è la stessa mail dal 1998 con le stesse foto, se non li prendete entro una settimana verranno abbandonati. Sì, e quelli però la settimana è passata a febbraio del 99, quindi... Serena. Sì. No, anche te su questa sindrome. Fa parte una delle cinque patologie, quella di volesse essere informati su tutto, aver sempre qualcosa da dire su qualunque esempio. Che poi il problema non è mai quello dell'amministratore di condominio di casa propria, che è un problema reale. Il problema è magari quello, che ne so, della fame nel mondo, di cosa fa il presidente Obama o dell'ultimo eccidio in un paese lontanissimo, sì, dell'Africa. Sì, sì. Cose di sacro rispetto, ma che non mi sembra poi appassionano profondamente tutti gli italiani. No, è come la sindrome del mi piace su Facebook, è la stessa cosa, per cui qualunque cosa viene, basta cliccare il pulsantino del mi piace, quindi insomma si è d'accordo con gli argomenti più disparati. Per quanto poi anche tu citavi l'amministratore di condominio, in realtà non è un problema diciamo troppo lontano, perché adesso proprio con il fatto che comunque ci si comunica attraverso mail, attraverso posta elettronica, per esempio io sono assediata da una catena di mail del mio condominio dove ci si scambiano impressioni su tutto quello che succede nel palazzo, dalla crepa nel muro. Ma perché non lo scrivete nella bacheca davanti all'ascensore come si è sempre fatto? Non lo fa nessuno, anche perché quello che è stato scritto nella bacheca in genere è pieno o di errori di ortografia, oppure nessuno lo legge, lo strappano, scrivono cose ingiuriose, quindi c'è questa catena di mail che mi riempie letteralmente la posta, dove tutti scrivono tutto quello, tra cui anche ma quando litigi, vi incrociate al pianerottolo fate finta di nulla? Sì, sì, assolutamente. Come gli amanti che, certo, si mandano gli sms in ufficio. Ah, sì, perfetto, sì. Bellissimo. Angelo, finalmente. Angelo, buongiorno. Buongiorno, Nicoletti. Parli. Io sono stato sempre un grande suo ammiratore. Oggi, come al solito, quando l'ascolto mi dà delle chicche, ha detto la frase... Sì, però adesso non sa ruffiare, lei ha scritto una lettera bruttissima. No, no, no, vabbè, scomposizione dell'alchimia della carne è forte, l'ha detto stamane, sono quelle piccole frasi che lei dice quotidianamente e che rimangono comunque impresse. Sì, guardi, c'è un gruppo di malati, più malati di me, che ha scritto il gruppo dei nicolettismi, le segna tutte queste strozzate e poi ne fa una sorta di vocabolario. No, ma vada al punto. Però io voglio dire... Mi sembra di ritornare ai tempi passati. Io sono stato uno che ha pagato bollette di 7, 8, 9 milioni quando c'era il famoso 144 negli anni 90, che non era porno. E vuole fare le zozzate porno. Lei che vuol fare? Poi si paga, no, chiaro. No, dico 166 prima, voglio dire... Sì, io ma chi è che telefonava? No, io telefonavo e c'era un gruppo di 10, 15 persone, come Facebook, no? Adesso c'è il Facebook e... Ti dicevamo tante cavolate, come sei? E pagava un sacco di soldi. Certo, 7-8 milioni di bollette. Cioè io sono stato... Vabbè, lei è un compulsivo... Iniziato per natura. Delle sexy telefonate, però, scusi, adesso... Però non mi sono fatto perdere niente, un vizioso per natura. Vabbè, se gli dava gusto, io mica voglio mettere... Non mi sono fatto il computer per questo motivo, le voglio spiegare che... Ma pagava molto meno e poteva fare le stesse cose, comunque, ve lo dico da amico, poi faccia come vuole. Sì, però voglio dire, io ho evitato proprio perché se no cascavo nella rete. E sono riuscito a uscire fuori da questi sistemi di comunicazione che per me sono artificiali, cioè ci si nasconde. Io non sono arrabbiato con lei, sono rimasto meravigliato perché non penso che lei insomma abbia bisogno, io sto parlando di Facebook, no, dell'utilità comunque, ecco, del computer, delle mail, anche a livello medicina, capisco quanto può essere utile anche con la dietologa, voglio dire. Io parlo del discorso Facebook, ho provato ad andarci con un amico e secondo me lì dietro si nascondono tante storie non vere, ci si nasconde dietro Facebook. Beh, guarda, io ho avuto molte delusioni da persone che ho frequentato che raccontavano storie non vere e ancora ne porto i segni nella mia tenera coscienza, quindi fa parte dell'umanità incontrare persone che raccontano storie non vere. D'altronde, scusi, io non voglio entrare... Lei mi parla che si è rovinato a far telefonata all'144. No, però non sono uscito fuori da questo tipo di comunicazione. Io sono no, un musicista. No, le spiego, in questo luogo io almeno. Sono un musicista artigiano, artigianale. Cioè io potrei entrare nel computer e farmi le basi al volo. Invece no, preferisco comunque essere uno vero, un musicista che prende la chitarra e si riscrive i spartiti, ascolta, piuttosto che andare in una pagina e lei se diciamo frequenta i computer sa che con un attimo io potrei fare una base con otto vabbè, diciamo, evidentemente adesso... diversi. Io preferisco più i rapporti normali, ma proprio perché sono passato dall'esperienza degli anni 90 e ho capito che col tempo i rapporti quando esci da casa e vai in piazza, incontri un amico, lo saluti, la ragazza che ti piace gli parli, sono alla fine rimangono quelli più reali. Va bene, ma nessuno, guardi che ogni tanto sia io che Serena Nardo che Achille qualche passeggiata tra la gente la facciamo pure. Comunque la saluto, Fabio, chiudiamo con lei che ha avuto una storia dolorosa, mi pare. Fabio. No, c'è ancora in corso. Ah. Diciamo che dopo un anno di frequentazione su un forum abbiamo stretto un certo rapporto con una persona e ci siamo stesi un canale riservato per continuare questa... E adesso? E adesso è sorto un innamoramento reciproco, ci siamo scambiati una foto per come siamo e la cosa va avanti e io sono sposato con questa ragazza. Ma quando vi vedrete? Ma non sappiamo perché c'è. Vabbè, passa tempo, sua moglie sarà contenta e sarà contento anche il marito, la sua compagna. Passeranno lunghi anni, vi guarderete le foto, vi racconterete storie d'amore. La vostra non è una patologia, ma è una salvaguardia all'integrità del matrimonio. Quindi anche voi, in fondo, avete una ragione di esistere. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Radio 24. La passione. Si sente.